finito? Boh, finito 10 minuti fa di farmi la doccia, la barba, perché domani non ci vuole nulla. Ma ci sarei da giubilare oggi, mamma mia, mi ho fatto un cancello da solo di 8 metri, davanti e dietro. Immagina che ha detto. Certo, una bella parlata, ma. Vabbè, tu dovrebbe cantare la canzone. Pittore, ti voglio parlare. Prima ho tutto raschiato, pulito, ho iniziato alle 10, ho finito alle 2 di fare quello. Poi sono salito a mangiare un boccone, sono risceso alle 3, alle 3, e giù venito da là. Certo, certo. Vabbè, vediamo di là. Ma come sta andando il radio? Benissimo, so che il gemello di questo, come sempre, perfettamente bene. Lo sai che me l'ha già riparato, ed è una bomba, è veramente a posto. Un ultimo lavoro mi ha fatto, una persona gentilissima, squisitissima e soprattutto molto, ma molto disponibile. Impressionante, la sua serietà. La sua serietà, la sua bravura, non c'è niente da fare. Io perché adesso siamo un po' lontani, distanti, ma a me la radio non me le toccava nessuno, no? assolutamente. Io ho quelle riparate a lui e da anni stanno funzionando una meraviglia. Questa l'ho dovuta mandare su 4:40, era tutta a posto, è perfetta, solo che settimana scorsa si è bloccato un relay di commutazione e non mi commutava le bande, e allora sono andato dal fratello, dal cognato di Massimiliano a Gavino, al laboratorio, mi ha dissaldato tutto, sono andato a comprarlo, l'ho modificato perché non si trova originale, l'abbiamo ripiazzato. La radio è perfettamente a posto, purtroppo radio vecchie ci bloccano ogni tanto qualche cosettina, però un lavoro di un'oretta, spesa 2 euro, quindi ne valsa la pena, dai. Sì, guarda, mi ha lasciato, sono stupito proprio da al 100%, perché ha fatto un lavoro straordinario, veramente molto molto molto bello, molto professionale, perché sento bene, benissimo la percussione, ero tutta la sera ascoltando in 40 in varie frequenze di 40 minuti, chiaro, prima era mezzo sordo anche, che io lo davo a lui, e adesso è un amore, guarda. È diventato l'uomo, ha fatto discorsi che ha 30 anni. No, quella proprio tua 30 anni non ce li ha, perché quella io l'ho comprata nuova. L'avevo comprata nuova, esattamente da Guidetti. 30 anni non ce li ha, ma 20 ce li ha. L'avevo comprata nuova, era un avanzo di magazzino che aveva, l'avevo comprata nuova. L'ho tenuta io 3-4 anni. E poi l'ho venduta a Franco. L'ho venduta a Franco. Franco l'ha data a te. E io non ci ho mai fatto niente su quella radio. Mai. Come a te non abbia poi fatto qualcosa a Franco, ma non credo. Era perfetta, nuovissima, l'hai vista esteticamente, come questa che ho io. E nonostante siano adattate, però esteticamente sono a posto. È perfetta anche questa. Perfetta. Adesso va bene anche come internamente, perché è stato televisionato. Giulio, io ti ho dato l'input, ma non avrò mai dubbi che possa fare qualcosa di spettacolare, anche perché nonostante il lavoro che c'è, che è lunghissimo, è molto fastidioso da fare, perché io l'ho visto fare. È molto fastidioso da fare se non sei pratico, o soprattutto non hai l'attrezzatura adatta, sei fregato, ma ci vuole la praticità, la bravura e sapere quello che stai facendo. quindi devi essere preparato in materia, e lì non ci piove. Ma a parte quello, poi quando te lo finisce, lui lo mette sotto strumentazione, ti fa tutte le tarature, se è sordo lui se ne accorge perché c'ha gli strumenti, capito? Quindi ti fa le tarature giuste, te lo va perfetto, perfetto, non c'è niente da fare. Sono contento, dai, sono contento, non avere mai dubbi, perché le mani d'oro è poco, forse ce le ha di platino, perché è una preparazione allucinante, su un po' in generale, a parte elettronicamente, che per lui è un hobby, ma ho visto lavori fatti da fare paura, da fare paura, quindi stai sereno che con la radio ti dura altri 5-6 anni. Sì, guarda, non trovo le parole nemmeno come vantaggio, perché devo dire che non esistono abbastanza aggettivi per dirgli quanto è stato bravo e quanto è stato gentile. Non ce ne sono parole, qualsiasi parola che puoi usare per vantarlo, guarda, non è mai troppo, veramente, una persona straordinaria. Si è impegnato subito, guarda, è una cosa che... E devo dire che in un certo senso mi dispiace, perché si è impegnato, io gli ho rubato in un certo senso, tra virgolette, del tempo, addirittura ha fatto le ore piccole per aggiustarlo. Guarda, è una persona straordinaria, veramente straordinaria. Salvami, tu lo conosci, è molto testardo, quando si mette in testa di fare una cosa e la deve fare finire... Ci mette ore, non dorme, non lo so, è inutile che me lo dici perché lo conosco, perciò è molto testardo sul lavoro, ma deve essere fatto come dice lui, perché se c'è qualcosa che non va, non funziona il cuscino, deve essere fatto alla perfezione. Lo so Giulio, lo so, conosco bene, io ripeto, nonostante siamo un po' lontani per delle cose nostre personali che abbiamo avuto, ma io lo vanterò sempre perché è una persona che merita di essere vantata, quindi a prescindere, quindi non ho niente che mi puoi aggiungere perché lo conosco perfettamente, so che cosa vale, so che cos'è, una bravissima persona, ha un'educazione da regalare, quindi ma ha una professionalità quando lavora che non ce l'è per nessuno, quindi i discorsi sono quelli. Sta il concetto che con la radio, prima di darti qualche fastidio, le viene un po' male, perché ognuno ha riparato a lui già da diversi anni, cosa che Bianconi mi aveva rimanata indietro, mi aveva detto che non si poteva riparare, l'ha riparata lui e sta sempre funzionando, meglio di come funzionava prima. Sì, guarda, va veramente bene, sono contentissimo, non contento, contentissimo veramente. Tu pensa che si è anche disturbato di mandarmi il video prima e dopo la preparazione. Ho visto la parte dove lui ha lavorato, proprio per sistemarla, che era corrosa in una maniera, guarda, non so nemmeno descriverla di quanto era corrosa. Mi ha mandato il video al lavoro ultimato ed è lucida, sai cosa vuol dire lucida, all'interno. Una cosa veramente straordinaria, troppo bravo, troppo troppo bravo, non si può dire no, è impossibile, a parte l'educazione, un'educazione, a quello fa parte del luogo, ma la sua bravura in queste cose è stata veramente eccezionale. Non ce l'ho, non ce n'è, possiamo stare tutta la sera a parlare, non ce n'è, non esiste. Non esistono aggettivi, non esiste niente per poter valutare una persona del genere. Il suo hobby è quello, è capace, è preparato, le piace, c'ha tutta l'attrezzatura da laboratorio che penso che pochi ce l'hanno, quindi c'ha oscilloscopio, c'ha adattatore di spettro, c'ha tutti gli strumenti necessari per poter fare un lavoro, ma soprattutto ha la preparazione, che è quella quali, quella che conta è quella che c'è il PMS. Dovevo la luce verde perché c'è un volume basso. Va bene, però quella radio era molto molto in ordine, io l'avevo, ti ripeto, comprata nuova, l'avevo usata veramente con molta discrezione, senza mai tirarla, senza mai, non ci ho mai fatto niente, forse era stata cambiata la lampadina dello smitter che me l'aveva cambiata Massimiliano Archimedes. Massimiliano GP, ma l'aveva cambiata lui in via Savoia, basta, l'unica cosa che ho fatto, poi l'avevo data a Franco, sinceramente poi non so più cosa abbia fatto lui, perché io poi ne avevo comprato il 430, poi avevo ripreso il 440, poi un altro 440, la mia radio è questa, non c'è niente da fare, non riesco a trasmettere con altre radio. Ho venduto tutte le altre, ma mi sono tenuto il 30 e il 40 perché sono le radio che ci sono più affezionato e poi sono a posto, e anche il 430 non ha mai funzionato bene da quando l'ha messo a mano lui, è sempre in ordine. Mi ha cambiato addirittura anche il frequenzimetro completo, ordinato da fuori, dall'estero, perché qua non si trovava, figurati. Ogni tanto alterno, uno o l'altra, ma le radio sono uguali, quindi non è che te ne accorgi se sto usando uno o l'altra. Bene, allora passiamo all'altro capitolo, per il resto goditela e basta, non ti aggiungo altro. L'altro capitolo invece è la nazionale italiana, l'hai vista, ti è piaciuta, cosa ne pensi? Ma io sono sempre dell'idea che non abbiamo elementi talmente validi da poter fare una buona nazionale. Comunque diamo il tempo, vediamo un po' che cosa è in grado di fare Mancini con questi elementi che per conto mio sono scarsi, almeno per essere una grande squadra. Prima la cosa, io mi sono ascoltato in cuffia poc'anzi, ho fatto tutte le regolazioni, adesso non mi ricordavo se la mia modulazione andava bene con il microfono a 500 ohm o a 50 ohm, comunque non c'era molta differenza quando mi sono ascoltato con le cuffie e l'ho messa a 500, mi sembra che l'ho messa a 500. Ma in cuffie non ce la fai mai, prova a metterla a 50, te la dico io la differenza se è troppo forte oppure va bene. Sì, aspetta un attimo, ecco, mi sono messo alla stessa distanza come ero prima e ho cambiato a 50 ohm, adesso è 50, come va meglio la mia voce? Era spettacolare prima, ma così è molto, ancora più spettacolare. Bella presente, tonalità medio-alta, i bassi giusti, vabbè, se tieni il Mickey Gain così è perfetta. Io non so se la mia è troppo alta, ma anch'io la uso a 50 ohm, perché ce li ho tutti così, i microfoni MC60, però ho il processore inserito, ma il Mickey Gain è tra lo 0 e l'1 praticamente, proprio bassissimo. Per me la puoi lasciare anche così, è perfetta, veramente molto bella. Ok, ho capito, sì, parlando così con questo tono di voce, così abbastanza normale, come se fossimo presenti l'uno con l'altro. Sì, va bene, no, è regolato il Mickey Gain a uno centrato, proprio uno centrato, ma ieri me l'ha fatto sentire lui, addirittura col microfono normale, me l'ha fatto sentire, anche aumentando il volume, e non aveva nessuna cosa, non storceva niente, era ottima, veramente un'ottima modulazione, io l'ho ascoltato ieri notte, addirittura me l'ha fatto sentire. No, sono troppo contento qua, sono più contento di quando l'ho comprato, guarda, perché mi ha ripristinato una cosa, tra virgolette, detta così, un pannovicchio, mettiamolo in questo modo, non è un pannovicchio, comunque è un pannovicchio, l'ha ripristinato, dai. Ehi, sono pannovicchi che funzionano bene, se li tratti bene. Assolutamente. Ti dico una cosa, perché io l'ho sempre detto e continuerò a dirlo sempre, non si toccano le radio. La radio non distorce, perché nessuno ha mai toccato niente. perlomeno io non ho mai toccato niente, né sollevato LC, né sollevato dentro il trimerino del Mickey Gay, niente, niente, come questo, si fa sentire il microfono normale ed è perfetta, metto anche al massimo, col processore non distorce, non deve distorcere, capito? Rimane molto molto più forte in banda laterale, deve cercare di regolarlo leggermente. Ma non deve distorcere col microfono già, distorce se la radio è stata toccata, allora distorce, perché ha più compressione col microfono normale, capito? Ma non deve distorcere, quindi quella è perfetta, vuol dire che è allineata bene e che deve funzionare così, assolutamente. Io non ho mai toccato niente, poi l'ultima volta che l'avevo mandata, ti ripeto, da Bianconi prima di chiudere, quindi l'anno scorso, va tutta riallineata, controllata. Se te la apro ti faccio la foto, cioè in ogni trimerino c'è la vacca, perché lui fa così proprio, perché li tara, li controlla, li mette e poi ti mette la cera vacca, in modo se tu li rimandi lui si accorge se l'hai toccata, capito? Quindi va bene, lascialo così che va bene, anch'io c'ho il Michelina 1, il processore inserito, impedenza 50, microfono 60. Ok, sì, sto andando con... in questo momento sono 18 watt più o meno, no? A riciclo 17-18 watt, va bene, come segnale? Il segnale sì, 9 più 20 pieno, anch'io ce l'ho a 15 watt di portante, modulati sono una 25-30, a molti picchi di modulazione, non c'è nessun bisogno di tirarle il collo, se necessita è come un lineare questa radio, no? Lo puoi fare da 5 a 100 watt, quindi lo metti a 50 watt, se qualcuno è fuori che non ti sente, lui fa il suo lavoro, infatti non ha nessun problema, però città va bene, 10 watt, 15 watt, cosa serve tirarle il collo? Ragazzi, mi guardi male, dutturubuzzu, poi io maledizione, solo il destro solo per solo il destro, come il sinistro mi incasino tutto, mi raggolende tutto, lo bizzello, lo rullo, ma ti ha mandato poco mattina sul cancello, ho fatto il cancello del passo carraio, quello nostro che è grandissimo, è 8 metri lungo, capito? Rimane praticamente quando è aperto c'è il fine corsa che si ferma a 2 metri prima, ma è 8 metri, quando entra nel camion così lo apriamo tutto, infatti me l'ho sganciato, c'ho la chiave per sganciare il motore e lo facevo andare a mano per verniciare, ma dalle 10 alle 2 è già finito. Tutta lì praticamente, scende sul cancello, e poi ho dato una mano a loro, che dovevano scendere delle, noi ci abbiamo i tubi, no? Quindi nelle ringhiere ci abbiamo i tubi, tipo un parapetto, e li stiamo tutti sostituendo quelli marci, e quindi mi imbragavano, io poi li mettevo a terra, se domani mattina viene Tavoni e si porta via tutto. Ok, ho capito. Certo che praticamente te ti hai verniciato quel cancello scorrevole che c'è all'ingresso. Ho capito, caspita, lì c'è un bel lavoro, non è poco. Guarda che a fare un cancello così ci vuole tempo. E ce l'hai fatto ogni giorno, hai camellato forse. Caspita, c'è bisogno di altra mano oppure basta così come quella che hai dato? No, gli ho dato il grigio scuro a coperto, c'era un verde già bruciato, quindi gli ho dato solo una carteggiata e poi l'ho soffiato col compressorino tutto e poi sono partito, no, una mano, ma 3 o 4 settimane fa avevo fatto quello piccolino dell'ingresso, stesso colore, e quello è rimasto verde, non andava bene, è tutto grigio qua, capito? È giallo grigio tutto il complesso, quindi questo verde non ci faceva niente. Sì, e adesso lunedì se mi porta la tinta inizia a fare le porte delle caldaie, quelle sono rosse, lei sono rosse per legge. E poi quelle della, delle autoclavi, lo stesso le faccio grigie, perché non mi è bastata, ne ho fatto solo tre barattoli. È grande, perché poi ci sono i, i piantoni, c'è il passo d'uomo, c'è poi tutto a barre dritte, capito, scatolato dritto, quindi ero sempre con rullino piccolo, pennellino, ho rilassato tutto il motore, e ancora, non ancora bloccato, ho staccato la corrente che sta ancora asciugando, dopo quando porto a Filippo, lo metto in tensione, in corrente, la salvavita e così rimane chiuso stanotte, adesso ancora giace luce aperto. Sì Giulia, vabbè, ho preso questo impegno e lo devo mantenere, approfittato a maniche corte ero, un caldo, bacio la faccia rubia come il toccavarò. Lo credo, oggi era una giornata bellissima, caspita, una giornata d'estate praticamente, oggi era. Anche ieri era eccezionale, anche ieri era una bellissima giornata, ieri infatti ho fatto una sudata, ieri sono andato alla visita di controllo, sono andato lì alla clinica, questa è la prima visita che ho fatto, adesso ne devo fare un altro mercoledì, grazie a Dio sembra tutto in ordine, sembra tutto a posto. Sentire, mi sento abbastanza bene, per cui non credo che ci saranno problemi nemmeno mercoledì prossimo. Vedremo. Va bene, dai. Beh, sono contento che bisognava fare. Vabbè, se vi fare le visite di controllo, fare. Anche Marco ha fatto la visita di controllo, mi pare, ieri, alle 11 di mattina. Ieri sera ci siamo sentiti. Se avete l'esito, però diciamo che in linea di massima dovrebbe essere tutto a posto anche per lui, però su farle le visite giù, perché vanno fatte, soprattutto quando è subito un'operazione, bisogna fare le cose fatte bene. Sì, beh, certo. Ero in attesa, cioè dopo tre mesi mi avevano prescritto di fare le visite, ero andato quattro volte al CUPU per la prenotazione, non me l'hanno mai fatta, anzi addirittura mi hanno detto no, non ci sono capito perché intanto non c'è posto, proprio il prossimo anno può essere che sarà più fortunato, e ad Alma gli ho fatto, no, non è così. Allora cosa ho fatto? Ho preso e sono andato in clinica direttamente. Segreteria mi ha prescritto la prima fase di controllo che ho fatto ieri appunto, e ieri stesso sono tornato di nuovo in segreteria perché mi aveva detto per la seconda fase venga giovedì stesso, che sarebbe stato ieri, e mi ha prenotato per mercoledì prossimo, adesso all'altra parte. Comunque tutto a posto. Sì, tutto a posto. La prima fase è andata bene, tranquillamente, non ci sono problemi. Per cui adesso la seconda fase, ma suppongo di sì, perché io mi sento bene, mi auguro che sia così, come sto pensando. Già è tutto a posto. Già va bene, dai. Don Marco ieri mi stava dicendo appunto che ha fatto la visita, sta alle 11 ieri mattina, l'hanno chiamato e c'era un posto, infatti è andato, mi ha detto che già sta bene, dai, già sta bene, sta un po' rincoglionendo a casa, ma già sta bene. Ok, anche lui, è chiaro che si deve far sentire, fare dei controlli, ovvio, perché quello che ha fatto lui è una cosa un pochino pesantuccia, però grazie a Dio è andato tutto bene, è meglio così, sono contento. Vediamo se c'è l'ascolto. Marco, ci sei l'ascolto? Non c'è, non è a Guglia. Allora, una cosa ti volevo dire. Allora sai che non scalda minimamente questa radio, ma nulla, io lo sto toccando, nulla. È appena tiepido, proprio appena. prima che scaldava, perché aveva il problema, capito? Ma c'è da scaldare, il dissipatore deve scaldare, la radio non deve scaldare, la mia è ghiacciata, il dissipatore o un po' di più, se fai passaggi lunghi, vabbè c'è la ventola, quindi cosa vi va? Dice lì? Qualche attaccata sia ancora la ventola, non lo so. Proprio no, funzionano bene, se sono tenute bene, hanno la manutenzione giusta, usala Giulio, metti da parte i baracchini, lasciali perdere i baracchini, usa quella perché va usata, va accesa tutti i giorni, fatta andare in trasmissione, io me la sono portata appresso, l'avevo portata appresso, stava tutto il giorno accesa, a volte chiacchieravo, a volte fischiavo anche in banda amatoriale eccetera, così giusto per farla andare un pochino, perché non vedo mai nessuno, però usala, non la mettere lì a fare ascoltare, usala, farla andare, bugati tutti i baracchini, mettiti quella, col suo alimentatore falla andare, lascia perdere i baracchini, a ripararli è facile, capito? Ma questo è, se non c'è la persona giusta, ha visto Franco se l'ha venduta perché non c'era nessuno che l'ha riparata. Sì, infatti, sì, nemmeno questa ancora non si è attaccata nemmeno la ventola, sì, va benissimo, sì, è il dissipatore, chiaro, io parlavo del dissipatore, è chiaro, la calcata è fredda, ma il dissipatore, io, ma è appena chiesto, l'ho preso appena lì, per cui va molto, molto, molto bene, molto, molto bene, veramente. Meglio così, no, stavo ascoltando tutta la sera perché c'era accesa dalle 4:20, l'ho accesa stasera alle 4:20 ed ero tutta la sera che stavo ascoltando in 40 metri, anzi ho ascoltato anche in 20 metri inizialmente, all'inizio fu anche in 20 metri, però poi ho cambiato perché non c'era molta preparazione, in 20 metri e l'ho messa in 40. E ho sentito anche qualcuno dalla Sardegna, un certo Giorgio, non so se lo conosci. Sì, è da Giorgio, abbiamo già parlato assieme, è lì nella zona di Cagliari. Non mi ricordo sia quattro, allora, o diceva Sant'Antio, cosa è? Non mi ricordo. Giorgio, c'ho anche il nome attivo scritto, ce l'ho anche su WhatsApp a Giorgio. Gli ultimi decimali ce l'hai, sì, 00, perché mi ricordo che quando l'ho comprato era arrivato, c'era il decimale punto 0, e per mettere 00 bisogna aprire il frontalino e tagliare un diodo, e anche quello me l'aveva fatto Massimiliano Archimede. Sì, c'è. Sì, adesso sta segnando 27.075.00. Sì, ci sono, e la voglia. Altro che quello è. Sembra così, ma sono importanti anche qui, i decimali sono importanti. No, quello di 1-0 fa schifo. Perché poi non ti dà il. Quando metti il RIT è un casino, capito? C'era a fare un lavoro un po' particolare, l'aveva fatto Massimiliano proprio quando gli aveva cambiato la lampadina dello smitter, capito? La lampadina dello smitter, l'originale è quella praticamente bianca come questa, ci sono molti che la mettono colorata, la radio bisogna lasciarla come te, piace come il Zegu. Se non la metti il suo originale, è messa nella sua sede, bene, no, lì a Dascoccio mette quasi niente. Per carità, ne ho visto che me l'ho portato qualche volta, tanto tempo fa, appunto, la camera è una parita, me lo memorizzi, perché Fabrio, ma che macchina ha fatto sta cagata? Sta lì a Dascoccio, sei allucinato. Salvatore, perché cosa c'è? Pugli quella vecchia, tagli, risaldi i fili, le metti il vulcanizzante, quello che ci vuole, le metti alla lampadina della sede, no, tutta una strada, mamma mia, che schifo, allucinante. Sì, quella lì, ti ripeto, il decimale, la lampadina l'aveva cambiata Massimiliano, via Savoia, proprio davanti a me, ma non che abbiamo fatto in Portogallo, no? Tu immaginati che l'Italia deve fare, lo scontro diretto con la Polonia, che perde è eliminata. Sì, sì, è vero, è vero. Critica, è per l'Italia critica, se non scende, scende in C scende, lo so. Sì, va bene. Ma qui funziona molto bene anche lo Smitter, perché poi è proprio per non rischiare di fulminare le lampadine, che potrebbe, sinceramente potrebbe succedere ugualmente, però ho abbassato l'attenzione dell'alimentatore, anche che fa dargli 13,8, le ne sto dando 12,5, ma questo è da molto tempo, Così sì, meno luminoso lo Smitter, però ha più possibilità di durata le lampadine, ecco quello che intendevo. Sì, la Polonia è capace che si curi burro, comunque saremo a vedere. Non lo so se ci picchia, ho visto il gioco, già sono bravini, ma Portogallo, Cancelo ha fatto un partitone allucinante. Tutti e tre i gol da lui sono partiti a fascia, non vanno dalla VAR. Come gioca con la Juve, gioca con la Nazionale. No, beh, 12,5 è troppo poco. Giulio, non ti accorgi che si abbassa anche la luce quando schiacci la portante? Dalle almeno 13,2. Ci attengono quelle lampadine, sono fatte apposta. Se non sono lampadine di cinesi, se sono dei laboratori, attengono sino a 13,5, 13,8. Io ce l'ho a 13,5. Non si è mai fulminata né una né l'altra. Né una né l'altra, capito? 12,5 è troppo poco per quella radio, non per quello ti scalda poco. 13,5 va bene, 13,5, 13,2, ma 12,5 è troppo poco, se no non lavora molto bene. KK, che te devo dire? No, io ho visto ieri, ho visto la Polonia, Portogallo, adesso mi sembra domenica sia di nuovo mette l'Italia, stava vincendo 1-0, poi mi sono distratto, l'ho ripresa in visione, ha vinto 1-1, 2-1, 3-1 ed è andata bene, è andata bene perché poteva vincere il Portogallo almeno 4-5-1. Sì, infatti è una squadra che non dice niente, questo niente, io la voglio paragonare e non credo di sbagliare, ad una squadra né più né meno di Serie A della bassa classifica, però, oppure addirittura della Serie B, e magari di alta classifica, Serie B massimo o media, dai, media classifica più o meno. No, non è una squadra, non ne abbiamo, è inutile stare lì a dire, a criticare gli allenatori, non è vero, no, un allenatore non è a colpa, che mette se non c'è nessuno, no? Poi qualcuno se ne può salvare, i Juventini si stavano, fatta mia, buonata, Bernardeschi ha fatto un bel gol, tutto quello che vuoi, però... È il resto che manca, ma adesso ce lo soffiamo le porte. Poi non parliamo di Cancelo perché ieri ha fatto un partitone. Andre Silva lo stesso ha fatto un partitone, lui mi va in maniera di lugni a morsi. Sì, ma vero, ma non ho capito perché l'ha dato il Milan Andre Silva. È un giocatore che, mamma mia, da paura, da paura, veramente molto molto forte, molto forte, ha camellato bene, ha giocato molto bene, un bel Cancelo, ha fatto spettacolo, veramente un grande acquisto per la Juventus. Vabbè, adesso vediamo la prossima settimana cosa succede, questa settimana è tutto fermo. La prossima settimana cosa succede, come va a finire il campionato, sono dei belli scontri e vabbè, cosa ti stavo dicendo, no, ma io te l'ho già detto, non sono convinto che l'Italia possa partecipare ai mondiali anche quest'anno con Mancini, non sono convinto nel modo più assoluto. Adesso c'è lo scontro diretto con la Polonia. Catalogna e va in C sicuramente, o per una cosa o per l'altra, perché c'è un punto, tu fuori del Portogallo ne ha 6, fate un gol, quindi dove vogliamo andare, di qua stiamo parlando, assolutamente. E poi non capisco perché non ha fatto giocare Giovinco. Giovinco è capocannoniere del suo campionato, poteva provare Giovinco con Giovinco, Berardi e Bernardeschi, oppure Giovinco, Insigne, Bernardeschi, oppure con Coso, con Immobile. Comunque se la convocata non ha fatto Yuga. Ricordati cos'era Giovinco con la Juventus. Giovinco era un gran giocatore, era. L'unica cosa che non mi piaceva di Giovinco che era troppo piccolino, con pazienza. Perché oggi con i marcantoni che ci sono, ragazzi, sono degli armadi, ci sono in difesa, mamma mia. Però Giovinco lo stesso, poi è anche molto bravo anche di punizione, tra l'altro. Giovinco è un gran giocatore. Poi sta facendo in questi anni che sta giocando in America, non so come sarà il calcio in America, però sta facendo delle stagioni straordinarie, sta andando molto molto bene, veramente, certo. No, ma Cancelo già lo sai che ha migliorato moltissimo Milan quando è con la Juve, già lo sai, rispetto sia ai mondiali che ha fatto e soprattutto quando era con l'Inter, guarda di molti che lo stava rovinando, invece è un grande giocatore, è veramente bravo, ma bravo a dirmelo. Sì, io l'ho visto, ma anche gli interisti lo dicono che ha migliorato tantissimo, e come Bernardeschi quando era con la Fiorentina aveva un gioco, con la Juventus ne ha un altro. E così, chi arriva alla Juve deve avere quella voglia di cambiare. Guarda, Giovinco è grande di Balami, non pensa che sia assai più alto, no? Perciò, però io mi ricordo che passava in mezzo e si faceva vedere, e poi come hai detto tu è bravo da calcio piazzato, quindi è molto interessante. Vediamo se domenica lo fa esordire. Barella ha fatto una bella partita, mi è piaciuto tantissimo. Coso, quell'altro, cos'è, del Milan, quel centrocampista che ha giocato, insomma, ho visto una squadra non drumita, il gioco c'era, però mancano i gol. Sì, certo. Giovinco è un gran giocatore, lo sappiamo, tecnicamente è molto valido, indubbiamente, anzi devo dire che se giocassero solamente a pallone senza giocare sull'uomo a caccioni o a gambetti eccetera, Giovinco si va a dimostrare un servito, perché tecnicamente è molto bravo. Capita, solo che ci sono certi difensori che quando si vedono che non riescono a trattenerlo, allora lo buttano giù, è quello, il problema è quello. E vabbè, quello ci vuoi fare. Sì, va bene, Dybala. Giovinco è bravissimo, ma Dybala è di un'altra categoria un pochino più superiore. Per non parlare poi anche di Bernardeschi, che è diventato straordinario. Bernardeschi Allegri lo sta facendo svegliare, le fa anche osservazione sempre, anche l'ultima partita che ha fatto con la Juve le ha fatto osservazione. Tu devi ragionare da Juve, senza offendere la Fiorentina, ma devi ragionare da Juve, perché la Juve è la Juve, la Fiorentina è un'altra cosa, dici. Allora, infatti qualcuno l'ha scritto e secondo loro ha offeso la Fiorentina, invece non intendeva assolutamente offendere. Anche la partita contro l'Udinese, che non passava a palla perché ha giocato benissimo, però c'è questa mania di un po' di gioco personale. Minchia, ma c'è tanto, si è incazzato Allegri, eh? E c'era il trafiletto sotto su Sky, perché hanno inquadrato Allegri incazzato l'aereo parlando col secondo, l'altro in seconda, e poi hanno messo il trafiletto di quello che ha detto Allegri, e Allegri proprio ha detto la parolaccia, cazzo si crede ancora con la Fiorentina, deve passare la palla, proprio così ha detto. Sì, in effetti è così, infatti le ha detto, tu devi giocare con la mentalità della Juve. La Juve dice, una punizione, una palla persa che sta andando in fondo laterale o a fondo campo, tu se la puoi recuperare, la devi recuperare, perché dice la Juve è la Juve, non è, qui deve essere così, qui la Juve non lascia niente di inventato, perché tutto, qualunque pallone, qualunque, anche la più stupida, deve essere recuperata la palla. Forse mi sono avvicinato troppo al microfono, aspetta che me lo metto com'è, no? Ecco, non so se ho strappato perché ero più vicino al microfono. No, c'era l'acuto più alto, ma non hai strappato. Non strappo, ti preoccupa, solo la circosia non strappo. Io parlo molto piano, sono abituato, sono sempre bello rilassato a 30 cm dal microfono, lo tengo sempre così, non regolo mai niente, so che a uno deve andare, il processore inserito va sempre così. Sì, ma è vero, tutti hanno cambiato totalmente. Adesso l'altro giorno hanno intervistato Higuaín col Milan, una partita che hanno vinto, mi pare. E era un po' così, titubante, ci ha fatto capire che il gioco è diverso, Gattuso c'è un altro metodo di allenamento. Allora ho detto, per me è importante mirare le palle per poter segnare, perché sì, è vero che salgo e scendo come facevo con la Juventus, però il mio ruolo è quello e ho bisogno di lanci, come l'ha detto, prima c'era Bonucci che lanciava, e allora però Bonucci non va più, capito? Bonucci sta lanciando a tutto andare, a tutte le punte, c'è un lancio micidiale. Bonucci ha migliorato tantissimo. Sì, Bonucci è un giocatore dai piedi buoni, è un giocatore che la palla la sa lanciare, e come, e poi c'è una lancia anche abbastanza precisa, non è che devi faticare troppo per ricevere la palla, perché ti manda il pallone quasi sui piedi o sulla testa se è necessario mandarla lì per il colpo di testa. E poi si inserisce molto bene anche quando ci sono i calci d'angolo, eccetera. Si inserisce, Bonucci è un gran giocatore. Vabbè, ha avuto quella stata in testa, quella volta scorsa, pazienza, può succedere a chiunque che prende magari il controllo, un uomo, è andata così, pazienza. Però Bonucci è un gran giocatore, e ancora oggi è all'apice della sua forma, no? Per cui va bene così. Ho visto anche con la nazionale, lanciava anche bene Insigne, le faceva sempre il dito, nonostante qualche lancio non è riuscito a prenderlo, però perfetti, grande giocatore, ha migliorato tantissimo. La difesa c'è, non è che non c'è la difesa, ti ripeto, mancano i gol, mancano le punte, mancano quelli che devono segnare. Ha fatto il Traberardi, ha toccato una palla, Immobile, la stessa cosa. Insigne ha fatto due bei tiri di quelli suoi. Quella bella conclusione molto forte di Bernardeschi non è riuscito a trattenerla e ha segnato. Però ci vorrebbe qualche spinta in più, qualcosa in più che cambiasse un po' questa nazionale italiana. È vero che non ci sono giocatori italiani, però cavolo, già ne abbiamo, insomma, da poter sfondare, da poter andare avanti. Ma non so cosa dire, non vengo un bel mari. Sì, no, non abbiamo, speriamo, infatti perché si sta battendo per quello Agnelli, che vuole che le altre squadre si svegliano e che facciano una squadra per da 16 anche, così crescono i giovani e ne trae vantaggio anche la nazionale, e non solamente la nazionale italiana, ma anche le squadre di club italiani ne traggono vantaggio, perché se tu lo fai un'altra squadra, i 16 si formano i giovani, è importante. Adesso la Juventus si è fatto la squadra 23, under 23, per cui va bene così. Però spera che anche le altre squadre, almeno se non altro le squadre più forti, che facciano una seconda squadra, che la facciano partecipare a quel campionato lì, così almeno sicuramente nascono dei giocatori abbastanza buoni, perché la Serie C è una rampa di lancio per il calcio, per la formazione dei giocatori. Ma perché le squadre di primavera che ci sono, dell'Inter, del Napoli, Milan, la Juventus, la Roma, non possono giocare in nazionale italiana, troppo piccoli sono? Ma quelli non li chiamano, quelli non penso che li chiamano, casomai li possono chiamare nella nazionale B, quello sì, però non li chiamano, perché sai, sarebbe un'offesa per gli altri giocatori, non va bene, ad esempio per i giocatori di Serie B, insomma tutti questi giocatori che sono avanti come categoria, certo, questo sì. Comunque, speriamo bene, quello che dice. Anche la squadra italiana, la squadra femminile della Juve è molto forte, anzi ha vinto campionato, l'ultimo campionato, cioè non questo che è iniziato adesso, l'altro campionato ha vinto la Juve, la squadra femminile, lo stesso. Sì, sì, l'ho seguita, l'ho vista, ha giocato abbastanza bene. Anche stavo guardando anche la primavera, ho visto che sono belle squadre, sia l'Inter, la Roma, il Napoli e la Juventus, ho visto che hanno il Torino, ho visto che hanno una bella squadra primavera. Sì, anche la primavera è vicinissima a 2 punti dalla prima, perché ha fatto un pareggio, però aveva fatto, mi sembra, già 3 partite, ha fatto 3 vittorie e poi ha fatto un pareggio, e dunque mi sembra che sia seconda in classifica, già c'è tempo, e capita, anche quella è forte, ci sono dei giocatori, c'è quelle del Fabero che è straordinario, e ce ne sono, e anche il portiere è bravo, ce ne sono giocatori bravi nella Juve, tutti sono bravi, anche negli under 15, anche nei Puccini, tutti grandi, tutti, negli under 17, tutti forti sono. Quello del Favaro non giocava del Cagliari. Ma sai che non me lo ricordo? Io mi ricordo che del Favaro giocava, sì, però non mi ricordo, forse giocava in Serie B, non me lo ricordo, la verità. A proposito, Barella è stato valutato 45 milioni adesso dal Cagliari. Magari ahí ha stato un brivio, perché lo stanno richiedendo. Io non lo so, vediamo un po' cosa, perché bravo, Barella è bravo, infatti l'unico che si sono fatto in nazionale è Barella, Bernardeschi, Chiellini, eccetera, eccetera. Sono quelli i migliori, gli altri io, anche Insigne, non mi è piaciuto per niente. Non lo so, ed è bravo Insigne, capita, soprattutto da quel lato lì, dalla sua parte, quel tiro al giro che ha è spettacolare, lo azzecca molto molto spesso. Bravo sì. Allora, Dario del Favero, la madre là di dov'è? La madre è polacca. La madre è polacca, il padre è sassarese, Massimo, perché la madre di Dario del Favero, Margherita, è una collega di mia figlia, lavora al McDonald's. capito? E il padre Massimo lavorava alla banca di Sassa, adesso non so se sta lavorando lì o cosa stia facendo. È Sassa Regge. No, non lo so qua, sì, ma se mi stai dicendo così vuol dire che è così. Non te lo so dire, è la verità. Non ho mai preso informazioni approfondite per questo giocatore. L'ho visto tante volte giocando lì. Ed è bravo, ti posso assicurare che è bravo. Ed è quello lì è predestinato proprio per giocare titolare, addirittura non so con la Juve, forse sì, perché la Juve compra fuori classe, però se continua a crescere anche nella Juve si fa spazio, guarda, anche nella Juve A, nella Juve titolare si fa spazio, perché è forte, è veramente forte. Sì, sì, tranquillo che lui, perché quando è esordito con Cagliari, la madre e il padre sono andati appunto a vederlo giocare, ed è Sassarese, il figlio di Massimo, la madre si chiama Margherita, lavora a Mecidona, ed era una collega di mia figlia, capito? Quindi lo so perfettamente. Adesso vabbè, lavora ancora lì, però mia figlia non c'è più, è qua a Monserrato. Capito? Sì, bravissimo, caspita, molto bravo, nata anche mia figlia, molto bravo. L'hanno dato loro alla Juventus, l'hanno dato loro alla Juventus proprio per crescere, perché col Cagliari non ha la possibilità di crescere. L'hanno dato loro proprio perché sono accorti che è un ragazzo che merita e che quindi ha bisogno di andare in categorie superiori. E con la Juventus fa strada quel ragazzo perché è molto bravo. Sì, suppongo questo di sì, perché la stoppa ce l'ha proprio alla grande, la stoppa per diventare un campione ce l'ha, non ci sono dubbi. Poi c'è anche un altro, questo Pereira, sempre con la primavera e la Juve, cazzo, c'è anche quello, guarda, è eccezionale, giovanissimo, mi pare va 20 anni appena, si può immaginare, anche quello è fortissimo, quello è straniero, non so cosa di quale nazionalità sia, però è fortissimo anche quello. No, sono tutti bravi, sono tutti bravi e giocano, io ne ho visto tanti, infatti vi seguo sempre su 153, sul canale 153, danno molto spesso la partita della primavera o qua, alle volte gioca anche di mattina, di giorno, giocano, è tutte le ore, e ne ho visto diverse di queste squadre, ma devo dire che è una gran bella squadra, e ce ne sono anche Bellina, anche l'Inter discreta, anche il Milan ha una cosa discreta, però la Juve, adesso sta lottando, perché qualche quello lì è un campionato molto riconosciuto dalla Federazione Nazionale, e l'anno scorso mi sembra che ha vinto la Juve stesso, se ricordo bene, o 2 anni fa, boh. Sì, tranquillo, per quel ragazzo non c'è neanche 20 anni, mette mia figlia, non ce li ha neanche 20 anni, quindi ma detto, dovrebbe farle al prossimo anno 20 anni, ne ha 19, lo sto dicendo, lo sa, perché è amica della mamma, il padre si era separato, si è messo con questa ragazza ed è appunto, vabbè, ormai si sta diventando altro, KK è un bravo ragazzo, penso proprio che quel ragazzo, che Dario faccia un esordio nella Juventus grande, sono convintissimo, tra qualche anno lo vedremo giocare con la Juventus grande. Io sto aspettando anche che faccia giocare qualche volta, almeno quando il risultato è già acquisito la Juve, sto aspettando che faccia giocare anche Ken. Sì, l'ha fatto giocare un attimino, non mi ricordo con quale squadra, e ha fatto una buona prestazione, perché quello lì è forte lo stesso, e capita, ne ha tanti giovani di lusso, e poi ne ha tanti in giro, ma tu lo sai che la Juve ha roba di 500 giocatori in giro, prestati a tutte le squadre, non solo italiane, ma anche straniere, proprio per farli crescere, e sono tutti giocatori che hanno dei veduti straordinari, Poi naturalmente tutti non possono diventare grandi campioni, però meglio che ce li ha, poi se crescono, allora dice, vieni a casa, dove eri? Vieni a casa, che la casa tua è qua. E ma infatti te lo sto dicendo, ho la vaga impressione che vada proprio così come ti sto dicendo io, perché io non l'ho visto giocare, ma va tantissimo da tantissima gente, aveva un bel gioco anche col Cagliari. Sì, sì, io lo credo. Adesso, l'altro forte, quello del Cagliari, come si chiama, che non me lo ricordo più, oltre a Barella c'è un altro, io ho preso, com'era quello, anche quello è bravo, anche quello. Vabbè, era stato squalificato per un certo periodo, però è un buon giocatore anche quello, secondo il Cagliari. Sì, sì, sì, sì. Ma io ti ripeto, sì, l'ho vista, io metto sempre su Sport Italia, al 60 io ce l'ho memorizzato, e danno sempre le partite della, proprio in diretta le partite della primavera. L'altro giorno c'era Juventus, non ricordo se era Juventus Inter o Juventus Roma, poi c'era il Napoli, poi c'era il Torino, poi c'era la Roma, e sempre avevano. Sì, sì, infatti, anche il canale 60, sì, è lo stesso anno, due canali hanno. C'è l'anno 60, canale 60 e canale 153, è sempre lo stesso canale praticamente, però trasmette su due frequenze. Io diciamo che lo seguo principalmente sul 153, perché c'è vicino il 152, e salto con il telecomando, salto perché l'altro è Topo 24, che parlano un po' di tutte le squadre, soprattutto Juve, Milan e Inter, per cui lì ci sono gli opinionisti che fanno i loro commenti a secondo della fede di tifo che hanno. E dunque salta un po', no? Naturalmente quando c'è la partita, guarda la partita, però se lo vicino, seguo quei due canali, 152 e 153, proprio perché così, quando c'è la pubblicità in uno, salto nell'altro e così via, no? Sì, sì, io ce l'ho qua in stanza, televisore a parete, e guardo sempre, vabbè, se c'è la Juventus, guardo la Juventus, se no guardo Sport Italia e mi dà tutto lo sport del campionato di Serie B, del campionato di C e soprattutto la primavera, capito? Poi c'è anche una partita amichevole per le nazionali, per la nazionale Under 21, capito? E vabbè, ma no, ragazzo è favoloso, veramente. È favoloso, proprio un ragazzo molto, molto attento, eppure piace il calcio, mi piace il calcio. Infatti il padre non voleva che lui prendesse quella linea lì, però quando è esordito col Cagliari, caspita, prendeva, mi sembra, sui poco, un 7-8 mila euro al mese, mi pare che 10 mila euro al mese, una cosa del genere. Forse sto sbagliando anche di me, però era ben pagato. Lo credo, non tutti stipendiati bene questi ragazzi, anche se ancora hanno molto da dimostrare, però sono giocatori e ragazzi che sono pagati molto bene, certo, già lo credo. Comunque, meglio così, buon per lui. Allora diciamo che la Santé Sardegna in quest'ultimo periodo, in questi ultimi anni, qualche campioncino lo sta tirando fuori, dunque, e non solamente Serie A, perché ce ne sono, e non solamente con le squadre di Guido, ma anche in altre squadre ci sono dei giocatori distretti, sardi, e anche ad esempio il ciclismo, vabbè, abbiamo Aru, abbiamo che è forte, anche se quest'anno è andato malissimo, però diciamo è sempre un grande campione. Vedremo, poi abbiamo anche dei campioni in altri sport, e dunque fanno onore alla Sardegna. Fanno anche la scuola Gigi Riffa, Barella mi sembra che sia della scuola di Gigi Riffa, una bella scuola quella, sono nati bravi giocatori, io seguo molto quella parte lì, quella parte proprio del calcio giovanile, aspetta, ce ne sono tanti, pensavo che ce n'erano pochi, quindi mancini, avevano un po' di pazienza, anche dall'Under 21, Under 21 possono giocare in nazionale italiana grande, qualcuno c'è già pronto da giocare, aveva giocato anche con la Juventus, aveva esordito con la Juventus e aveva anche segnato. Sì, beh certo, già lo credo, sì, no, diciamo che... però il discorso è sempre quello qua, le società si dovrebbero impegnare di più per far crescere i giocatori italiani, per poterli portare in nazionale pure. So che oggi l'orientamento è massiccio proprio verso i giocatori stranieri, per cui gli italiani vanno a rilento, però Agnelli sta pensando anche a quello, proprio per quel motivo lì, che vuole che si facciano squadre under 23, anche di 16, dai, per le altre squadre forse, perché è soldi perlomeno. Certo non è che posso pretendere che faccia la seconda squadra, tanto per fare un esempio, il Chievono, è ovvio, o il Sassuolo, non penso di là. Ma le nostre squadre potrebbero anche fare una seconda squadra, così ci sono, a parte gli intruiti anche, no? Però ci sono le spese, ovvio. Però c'è anche una grande possibilità per la squadra italiana, poi per la nazionale. Cosa sto dicendo? Se crescono quelli dell'Under 21 possono tranquillamente accedere alla categoria superiore e quindi giocare anche in nazionale italiana, perché sono l'Under 21, hanno 20 anni, 21 anni, quindi sono già ragazzi che hanno una certa preparazione. Quel Pezzella mi sembra che ha giocato con la Juve, adesso non vorrei sbagliare, della nazionale di Biagio. Ho visto che è un bel gioco. L'hai letto su Sky di Pogba? Ha breato di brutto con Mourinho, non vuoi più rimanere, se non vuoi tornare in Italia. Ciao Luca. Sì, lo so, no, ma lui vuole. Infatti la Juve ci sta pensando alla grande, ci sta pensando, anche se hanno dichiarato l'altro giorno che Jovic e Pogba dice è del Manchester, per cui non, ma sai che non si bilanciano molto, ma io sono convinto che la Juve ci sta pensando, e come ci sta pensando, altro che avanti. Ma Luca, buona serata. Come fresco di sì, già entra dopo del Manchester, sento 120 milioni di euro vuole, algo preso, non penso che la Juve deve rientrare 19 milioni di euro fuori, con tutti gli acquisti che ha fatto, è un po', no, in crisi no, perché in crisi non ci va la Juventus, però è sotto, deve recuperare adesso deve arrivare la Champions, se riusciamo a pizzicare la Champions quest'anno allora recuperiamo i 300 milioni di euro e allora si risale ad alta quota, però ha speso troppi quattrini, quindi non penso che a gennaio si metta in gioco per Pogba, costa troppo. Ehi, io Fembe ci sta pensando, perché la Juve i soldi già ce li ha, la Esso, si sa, mica la Juve della Esso, la Fiat è popolo, e loro sono la Fiat, la Chrysler e tutti gli amici, per cui sa quanto è cassato l'anno scorso la Fiat, ha incassato 1530 miliardi, tanto per darci l'idea, sono lui, e se interviene quello si cupareggia tutta l'Europa, si cupareggia delle squadre. Eia, vuol dire che una ciabatta non va bene, lui, non ti fidare, non deve saltare attaccando una ciabatta al contattore. Non va bene, c'è qualcosa in quella ciabatta che non va bene, lui. E ho capito, un po' lo fa, un po' non lo fa, ma qual è quell'interruttore? Ci può essere quell'interruttore che ha un falso contatto, ti fa saltare, magari tocca, stai attento. Le ciabatte vogliono buone, io non agio. C'ho il quadretto, l'ho fatto fare dall'elettricista, dopo il fulmine con salvavita, non agio, e tutte le prese nel quadretto, quelle americane, quelle normali a tre, attacco piccolo, attacco largo, ho fatto fare una cosa fatta bene. Però quando avevo la ciabatta, è proprio dalla ciabatta a me che mi ha bruciato la radio, ho capito? E ho capito, del latticino, comprate bene nei negozi autorizzati, da 2 kW con interruttore buono, perché altrimenti non fa, altrimenti è sempre pericoloso. Secondo me se comprate alla Ercon, alla Sife, dove vendono cose del latticino, ci deve essere scritto, perché quelle sono garantite. Anche se l'hai comprata dai cinesi, che l'hai comprata in un altro negozio, deve essere roba buona, perché lì passa tensione, l'interruttore deve chiudere bene, deve aprire bene, se è un interruttore del cacchio ti può creare problemi. Io ne avevo una non comprata, non da latticino, spenta, c'era solo una radio accesa, solo accesa, in corrente, nella attaccata la presa, ma la ciabatta era spenta. Entrata mi ha disintegrato la radio, il millone, ma l'aveva disintegrato, esercito di disintegrato, non si via manca per il ricambio, avanti giù. Ok, qua, io guarda, me la sono autocostruita la ciabatta, e ho comprato le prese normali, quelle che si usano nelle case, no, quelle che si usano da incasso, e che vendono la scatola per fare la multiprese. Io ne ho messo 5 più di interruttore e sono prese di impianto elettrico di casa o di qualunque altro posto, con interruttore di casa. Ci sono lì da Bricome, c'è la scatola, no? È lunga intorno ai 20, oltre, forse anche di più di 20 cm, e ci sono le prese che ce le hanno loro, e ho comprato la scatola e le prese da parte, mi sono fatto tutti i collegamenti, quando voglio io spengo l'interruttore e stacco la corrente dalle prese. L'ho fatto qui, però ci stanno 6 prese volendo, cioè 6 frutti, le prese e gli interruttori si chiamano frutti, capito qua? Sì, perfettamente. Tutto l'hai fatta tu, io mi sono fatto fare non una ciabatta, un quadretto, un pannello attaccato a un muro dietro in fondo dove c'è la finestra, ok, con tutte le prese, ok, e il salvavita inserito. Io se c'è il salvavita inserito, tutte le prese sono attive, c'è la lucetta rossa accesa per vederla, non so mai me la lascio accesa, ok, quando ho finito abbasso il salvavita, boom, non passa corrente, esce una batte. La commutazione delle antenne io ce l'ho elettronica, ok, me l'ha fatta proprio Fabrizio con Maurizio, quindi io c'ho il neutro, metto il neutro a 5, si chiude, re sopra e non passa nulla. Quando vedo che c'è molto temporale, cose, balle varie, lo stacco il cavo di discesa, perché è l'unico cavo di discesa, lo stacco. Però tensione non c'è da nessuna parte, in questa stanza tensione non ce n'è da nessuna parte, nulla, perché il quadretto alimenta solo per radio e basta. Le radio radio e il computer. Quindi una volta che è chiuso non passa nessuna tensione, però me l'ha fatto l'elettricista. Io non ho fatto niente. Ho fatto il mio collega elettricista, lavoro, sono di quelle scatole. L'ha tagliata praticamente in due per aderire meglio al muro, per non essere molto larga, ok? Gli ha rimesso il pannello dietro, tutto, è tassellata a muro, e ti dico che sono Renato, le prese che ho, le ho tutte tolte, quelle che avevo, quelle da appartamento, e mi ha messo le prese industriali, quelle industriali proprio, e quelle a sportellino. Una a una parte e una all'altra, dove c'è anche la televisione, lì è lo stesso alimentato dal quadretto, quindi una volta che abbasso non c'è neanche tensione nella TV, lavoro ad hoc. Sì, sì, è lo stesso discorso che ho fatto io, tu hai fatto un quadro e io è come se fosse un quadro stesso, perché sono prese da parete, da impianto elettrico, per cui da parte da me di quelli che vendono non ne ho, sono fatte così, io ce li ho così, anzi devo dire che ne ho anche un'altra di scatola e mi compro di nuovo le prese e me ne faccio anche un'altra, così, tanto per la presa, non si sa mai, può servire, quasi quasi la faccio vado a mia figlia per l'ufficio, per cui così almeno, perché lei ce l'ha la ciabatta, è buona, perché ce l'ha tanti anni ed è buona, veramente, l'avevo pagata mi sembra roba di 25-27 euro, è buona, devo dire che è buona quella, non si può dire di no, però non c'è paragone con le prese fatte quelli degli impianti elettrici direttamente, ecco qual è il discorso. Avanti Luca. Ehi, però molti si affidano a queste ciabattine e così, capito? E intanto per alimentare una radio, un alimentatore, ma non funziona così, no. Non fa niente che vada in corto l'interruttore e ti salta tutto per aria, no, non va bene. No, io ho fatto fare tutto nuovo quando mi era successo quel casino delle radio. Ci hanno rimesso una barca di soldi, capito? E quindi ho detto al mio collega elettricista, ho detto non fai un quadretto, se non hai materiale lo prendi all'aereo, ti do i soldi, ma no, ce l'ho, l'unica cosa che manca sono il pannellino, il quadretto, l'avevo comprato io all'aereo. L'avevo comprato io all'aereo, direttamente lì a Valledoria. Per lui, siccome era molto largo, quindi sporge molto, allora con la molettina l'ha tagliato in due, gli ha rimesso il pannello dietro, con le viti, e ha fatto tutto il quadretto. Ed è una cosa eccezionale, sicura, ci vuole salvavita con la radio ci vuole perché basta un niente. Io addirittura ho anche lo stabilizzatore di tensione, fido sempre a 220 diretta al pannellino, erano quei stabilizzatori vecchi che si usavano, perché c'era un periodo avevo 195, 200, 205, invece al pannello entra direttamente da 220. Sì, va, così va benissimo, sì, certo. Vabbè, dai, aspetta un attimino qua che vado un attimino in bagno. KK, tu Gabriele, lo Gabriello. Sono tornato qua. Sei tornato? Sì, sono tornato. Così abbiamo fatto anche quella. Sì, perché ho bevuto mezza bottiglia d'acqua stasera qua, così. Assurse così. Perché mi aveva consigliato anche il medico, bevi molto anche, no? E dunque se bevi molto è chiaro che poi, ma diciamo che in tutta la sera, e adesso mi ho avuto necessità di fare. E anch'io, lavorando un litro e mezzo d'acqua con un bel po', qui a cena, lo stesso, un litro otto ci parte, però non mi alzo la notte, io vado prima andare a letto e vado a letto. che ore sono? 7:20, vedo che stanno già rientrando, come rientrano un po' tutti, vedo le macchine stanno aumentando, scendo e attivo il cancello, ma intanto fra un po' lo porterà Filippo, attivo il cancello, vediamo corrente, così si chiude in automatico, la notte è meglio che rimanga chiuso. Già non credo, caspita, se c'è la comunità di avere il cancello chiuso, caspita, perché vuoi lasciare, no, la volta è meglio, poi in quella zona lì, che in alto, sai, il palazzo è altissimo, se entra qualche deficiente non sentite niente, per cui va bene così. Cosa ci avete delle telecamere? Non ne avete messo telecamere, niente, no? Sì, sì, l'anno scorso avevamo incendiato una macchina, l'anno scorso è stato fatto un impianto di videosorveglianza esterno e sotto il piano pilotti, no, ma illuminato a giorno, vedere, abbiamo cambiato tutte le lampadine di quelle a LED, puliti tutti i globi, è illuminato a giorno, non c'è un punto che non è illuminato, tutti i piani piloti sono tutti illuminati, ci sono tutte le luci accese, quelle del giardino, tutte sono belli punti luci, e poi ci sono quattro telecamere, due da una parte e due dall'altra, di quelle esterne, nei pali sopra, pali dei lampioni, e poi tutti i piani piloti, due per ogni piano pilota. Noi avevamo avuto un danno allucinante perché avevamo incendiato una macchina che era molto vicina al porticato e ha annerito quasi tutta la facciata, ci è costata una barca di soldi e soprattutto ne sono cadute tutte le mattonelle, quindi il placcaggio, un casino, ha costato circa un 7-8 mila euro solo a fare il lavoro della facciata. Siccome non siamo coperti di assicurazione fortunatamente, però è stato un danno molto, molto brutto, anche perché aveva bruciato la persiana del primo piano, quindi di casa era soffiata, un casino, stava partendo l'incendio anche oltre, e allora abbiamo messo l'anno scorso, prima dell'estate, febbraio, marzo l'anno scorso mi pare che sono state messe. Avete fatto bene, già lo credo, sì. Ci vuole, è tutta prevenzione, poi che sia illuminata a giorno tanto meglio, così scoraggia un pochino di più certi fenomeni, io li chiamo fenomeni della malavita, questa gente qua fa caridare. Quanto mi sarebbe piaciuto se quando parlo del mare, che il mare si rivoltasse in quel preciso istante a loro stessi, da gentaglia, per carità, e ce ne sono tanti, ma tanti veramente, sta diventando una guerra, soprattutto nella parte bassa della città, nella parte vecchia, sempre in guerriglia sono a forza di catene, a forza di bastoni, se poi non parliamo dello spaccio che c'è, una vergogna, anche da poco lì al corso, in strada di vecchio, c'è stata una zuffa, non so se l'hai sentita, ci sono tutta parlate, nigeriani e sassarisi, ui, dove stiamo andando a finire, se mi ricordo i tempi passati come erano belli, tranquilli, potevi lasciare la porta aperta la notte, dormivi tranquillo e nessuno ti faceva del male, oggi capita di bondi dei carabinieri davanti alla porta e ti fanno, non riescono a farti del male ugualmente, per carità. No, una vergogna quella zona lì, una vergogna. No, qua una persona tranquillissima, un mezzo di lavoro era, capito? Si suppone gelosia tra un artigiano, un ragazzo molto tranquillo che non ha mai... aveva un fiorino, un doblò mi sembra, un mezzo da lavoro, infatti lui stesso ha detto sicuramente qualche deficiente, magari. Io non so se ho fatto qualcosa che non dovevo fare, forse lavorando, non lo so. Sono entrati a vedere tutti. Ho iniziato a sentire questa puzza, questo fuoco, fuoco, fuoco. Nel momento in cui sono sceso anch'io, da una mano e abbiamo attaccato l'idrante, vi sono gli idranti anche, ogni sottoscala, ogni piano pilota c'è l'idrante. Si è sollevato troppo il fuoco e non potevi fare niente. Abbiamo lanciato acqua a tutto andare, ma non ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta anche perché la macchina c'aveva roba di plastica dentro, attrezzatura da lavoro, capito? Quindi ha cominciato a decoupiare, a partire vetri, a partire gomme, ha detto il polso da io. Nel frattempo sono arrivati i vigili del fuoco, l'hanno spenta loro con la schiuma, ma danna rete aveva fatto. Danna rete, non finiva mai di bruciare questa macchina, una cosa allucinante. Evidentemente aveva molta plastica, cosa ne so, era un po' blu anche, non vecchio vecchio, mi pare che mi avesse detto che era il 2007-2008, quindi non di ultima generazione, ma comunque una macchina che si va per lavorare. E da allora l'amministratore ha deciso di mettere le telecamere. E vabbè, Giulietto, io devo andare. Devo andare, sono già le 7:30, devo attaccare il cancello, è già buio, e devo portare a Filippo, dai. Le chiacchiere ce l'abbiamo fatta, siamo più di un'ora in radio, abbiamo parlato un po' di sport, un po' di cosettine. Ok, niente, sappi che io dalle 6 in poi sono attivo in radio, oggi dalle 6 in poi. Alle 6 perché a volte mi trattengo, a volte finiamo alle 5, alle 5 e mezza, al tempo di lavarmi, poi mi siedo, ma no, più o meno dalle 6 in poi. Comunque, se non ti rispondo qua, tu chiamami di là in dall'altra parte, è già lì, ce l'ho squelce e ce l'ho sempre attivo. Ok, grazie alle due chiacchiere, saluti a casa, saluto tutti quelli che sono in ascolto e ci aggiorniamo domani, Giulio. Ok. Ok, qua, grazie a te, contraccambio saluti, a domani qua, vabbè, anche stasera è passata bene, là, ci siamo divertiti ugualmente, anche se eravamo soli. A domani qua, buona passeggiata, saluti di nuovo in casa, là, ciao. Ciao Giulio, quella cosa che ti ho detto, usa questa, falla andare, baracchini, lasciali stare spinti. Sì, qua, guarda, me l'ho messa sopra il comodino, sotto dal tavolino che è vicino stesso, me l'ho messa sopra il comodino, se la prendo proprio a portata di mano, senza bisogno nemmeno di spostare il tavolino, perché il comodino è vicino, allungo il braccio, mi posso sdraiare e chiacchierare così come ho fatto stasera, tutta la serata, là, praticamente. Sì, certo che la facevo funzionare. La volta scorsa mi ha pegato, l'avevo lasciata un bel po' di tempo, un mesetto e mezzo, due mesi senza accenderla, ed ecco che è subentrato il discorso puntini che poi si sono portati avanti, il danno si è verificato e grazie all'amico che me l'ha fatta, che è un amore di persona, è straordinario veramente. Non smetterò mai di ringraziarlo per il lavoro che mi ha fatto. Ci sentiamo qua, a domani, ciao, grazie ancora per la chiacchierata, saluti, ciao. Ciao Giù, grazie a te. Il danno maggiore, come aveva spiegato lui, lo fanno i condensatori, quando scoppiano quei condensatori lì, c'hanno un acido dentro, ti sporcano tutto, invadono tutto il circuito stampato, fanno un casino della Madonna. E a parte la sostituzione che c'è di tutti i componenti, perché sono tanti, sono tantissimi, mi stava dicendo proprio lui, mi aveva detto che erano più di circa 16, 20, 20 condensatori, senza tutte le altre cose, ma va ripulito tutto il circuito stampato, lavato bene la trilina, pulito bene prima di risaldare i nuovi, quindi c'è un lavoro grandissimo, ho capito, che questi cacchio di condensatori quando scoppiano fanno, perché c'hanno dell'acido dentro, capito? La colla dell'acido, un casino fanno, io l'ho visto, mi sono spaventato da schifo. Ciao Giulie, ci aggiorniamo domani, buon fine serata e buon tutto, ciao ciao. Ok, qua, grazie ancora per la chiacchierata. La cosa più bella è la bontà di questa persona, che poi tra l'altro gli ho chiesto quanto me dovevo volare e mi ha detto niente, per carità, assolutamente niente, nonostante che sia consumato il suo materiale, ha detto, mamma il materiale, niente, proprio veramente in gambo, una persona squisitissima. Ciao Claudio, uomo, chiudo anch'io, ciao. Non avevo dubbi, non c'era bisogno di dirmelo. Ciao Giù, un abbraccio, a domani.